Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Sarganti e traghettatore, bentrovati per la puntata di Ferry Boat. Scade oggi il bando per la presentazione dei bilanci che partecipano all'Oscar di bilancio 2011, il più prestigioso evento del genere in Italia. Le imprese profit e non profit possono partecipare all'iniziativa della FERPI, della Federazione Relazioni Pubbliche Italiane, che anche quest'anno segnalerà così le organizzazioni impegnate nella comunicazione efficace e trasparente dei propri rendiconti. Di padre in figlio è un singolare premio che è molto giovane, nato da poco, di cui parliamo con l'ideatore Alberto Sarsi, che è con noi in linea. Salve Alberto Sarsi, ciao. Ciao, che cos'è, un saluto a tutti gli ascoltatori. Che cos'è di padre in figlio? Si capisce, si intuisce, ma insomma spiegacelo bene. Padre in figlio è giovane, ma direi giovane da più tempo, nel senso che è un'iniziativa nata ormai 4 anni fa, allo scopo di intercettare e quindi valorizzare quei figli virtuosi che sono stati capaci di prendere le redini delle aziende di famiglia, delle aziende fondate dal genitore, e di garantirne la continuità, la crescita, l'occupazione, lo sviluppo. Ed è anche al tempo stesso rivolto a quei padri lungimiranti che hanno avuto l'illuminazione, l'intuito di allertare, coinvolgere, appassionare i loro figli all'avventura aziendale. In Italia questo, in Italia soprattutto al nord, in particolare in Lombardia piuttosto che nel Veneto, è un problema molto sentito, perché la struttura, il tessuto connettivo di imprese è fatto proprio da piccole, piccolissime aziende che sono per lo più familiari. Assolutamente sì, è un problema quasi sottaciuto, nel senso che circa 2/3 delle imprese italiane hanno un problema manifesto o potenziale di passaggio generazionale, vale a dire i padri hanno un'età anagrafica significativa e i figli non sono ancora in panchina. Il numero delle imprese che hanno che manifestano questo problema è effettivamente sempre in crescita. Si stima che guardando anche il tessuto connettivo delle nostre aziende, circa 2/3 delle aziende italiane non arrivi alla terza generazione. È per quello che abbiamo ideato il padre in figlio, il progetto del premio di padre in figlio. Quindi vogliamo creare un effetto, diciamo, di imitazione, e quindi vogliamo sollevare una soglia di attenzione verso coloro i quali che ce l'hanno fatta, verso coloro i quali che sono stati capaci. Quindi il loro esempio è a disposizione di tutti, è un esempio da enfatizzare, perché possa in qualche modo contaminare. Da quell'angolatura di visuale avete visto sicuramente anche molti casi di eccellenza, immaginiamo. Assolutamente sì, casi fantastici, anche devo dire commoventi, padri che hanno veramente condiviso questa scelta e non l'hanno imposta ai figli, e padri che con grande determinazione hanno capito che i loro figli non erano in grado di continuare questa esperienza, quindi li hanno lasciati, come dire, prendere altre strade, e anzi magari in alcuni casi li hanno anche incentivati, aprendo in questo caso dei manager, quindi facendo entrare dei soggetti terzi rispetto alla famiglia. Grazie ad Alberto Sarsi e a presto. Chiudiamo con un'iniziativa tanto singolare quanto a nostro avviso di grande efficacia e per certi aspetti anche commovente. Educare al riciclo e aiutare chi non ha nulla, è questo l'obiettivo che si è posto alla campagna della Fondazione Magis, che è un'organizzazione non governativa dei gesuiti italiani, che riceve un contributo per ogni telefono mobile. Quindi oggetti che sono inutilizzabili si trasformano in aiuti concreti per 300 gruppi di famiglie in CIAD. Vi ricordiamo Fondazione Magis. Da cercare su internet troverete le indicazioni per donare i vostri telefoni inutilizzati. Questo è tutto. ferrybot@radio24.it è l'indirizzo che vi raccomando per segnalare le vostre iniziative. Un grazie ad Anita Panizza in redazione e a Valeria Bernardi in regia. Alla prossima.